Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del sabato con hashtag Autotrasporti, il programma che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto. Questa settimana andiamo in onda dalla Fiera di Verona e da Transpotec, il salone dei trasporti e della logistica, che ha aperto i battenti giovedì e chiuderà domani. La manifestazione leader del settore, una ribalta per 260 espositori e un'occasione di incontro, riflessione e dibattito sui temi del comparto. Ne parleremo più tardi. Partiamo dalla stretta attualità. La Sicilia resta spaccata in due dopo la frana che ha lesionato i piloni del viadotto Himera, interrompendo l'autostrada Palermo-Catania. Dopo il sopralluogo, il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio ha confermato che occorreranno dai 18 ai 24 mesi prima che il ponte venga ricostruito e ha annunciato la creazione di un bypass sul quale deviare il traffico attraverso la rete ordinaria. In particolare, le conseguenze per gli autotrasportatori sono pesantissime. Si è calcolato che l'allungamento dei tempi di percorrenza costa 1,5 milioni al giorno, di cui la richiesta delle associazioni di un piano di emergenza da parte del governo. E di sicurezza, rete e infrastrutture si è parlato anche qui a Transpotec. Roberto Mastrangelo, della Direzione Centrale Esercizio e Coordinamento del Territorio di ANAS. Sicurezza e rete significa sostanzialmente tre aspetti. Il primo è quello della progettazione, la realizzazione di nuove infrastrutture, quindi progettare in sicurezza significa che nel momento in cui viene messo giù il progetto di una nuova strada bisogna già tenere conto di tutti quelli che sono gli elementi e le criticità che possono riguardare appunto la sicurezza della circolazione. Il secondo aspetto è quello della manutenzione, mantenere le strade, le infrastrutture in sicurezza. ANAS gestisce 25.000 km di strada, parliamo di 11.000 tra ponti e viadotti, parliamo di 1.200 gallerie. Stiamo parlando di una infrastruttura complessivamente realizzata mediamente prima degli anni 70. Il terzo aspetto è quello della gestione. Gestione significa sostanzialmente conoscere quello che succede sulla strada e informare tempestivamente gli utenti in modo da evitare che vengano a ampliarsi gli effetti negativi delle criticità, che possono essere criticità legate ad eventi incidentali ma anche a eventi atmosferici che interessano delle aree. E oggi a Transpotec è stato il giorno dell'albo dell'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture, che dopo la recente riforma ha acquisito un ruolo ancor più centrale nelle funzioni di coordinamento delle attività di controllo e di impulso a favore del comparto. Il convegno, organizzato stamane dal Comitato Centrale dell'Albo, è stato incentrato su regole, sicurezza e competitività e si è parlato delle emergenze del settore, tra le quali la concorrenza sleale, le sfide europee e il cosiddetto dumping sociale, temi che approfondiremo nell'appuntamento di lunedì sera. Al di là dei primi segnali di ripresa, negli ultimi anni la crisi ha picchiato duro sul mondo dell'autotrasporto. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confartigianato, nel terzo trimestre del 2014 le imprese del comparto sono scese del 2,8%, pari a 2.844 aziende in meno. La flessione riguarda tutte le regioni, con punte del 4% in Emilia-Romagna e Lazio. Solo in Molise e in Valle d'Aosta il numero è rimasto invariato. L'indagine indica che oltre la metà, il 54,3% delle imprese del comparto, si concentra in 5 regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Lazio. E ora torniamo a parlare di Transpotec, dal quale andiamo in onda. La manifestazione è organizzata dalla Fiera di Milano. Roberto Foresti, direttore commerciale, traccia le linee guida di questa edizione, sulla quale soffiano i primi venti di ripresa. Abbiamo una percentuale di visitatori che è circa il 30% superiore a quella dell'edizione precedente, quindi quello che noi possiamo definire è che tutti insieme abbiamo creduto in questo sistema, abbiamo creduto in un trasporto che si può riprendere non solo attraverso le nuove tecnologie ma anche attraverso una nuova cultura del trasporto. Il trasporto su gomma resterà fondamentale nell'economia e nel sistema economico. Ovviamente attraversa una nuova situazione e un nuovo scopo, è per questo che ci siamo trovati tutti insieme in questa che è diventata l'edizione italiana più importante di una fiera del trasporto per tracciarne appunto le linee guida per il futuro. Questo appuntamento del sabato con hashtag Autotrasporti termina qui. Vi ricordo gli altri appuntamenti della settimana con il mondo dell'autotrasporto su Radio 24. 24, in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e lunedì alle 21.45. Da Andrea Ferro, buona giornata a tutti. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.